Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero in versione estiva, e fra le tante cose che succedono d'estate c'è quella di fare o meno i grandi affari, no? Succede che si ha il tempo per andare magari nei centri commerciali o negli outlet per cercare di acquistare delle cose che avremmo sempre voluto comprare, però non abbiamo mai fatto perché costavano di più prima, e quindi cercare di trovare quelle cose a un prezzo inferiore, oppure perché camminare tipo per la spiaggia troviamo dei signori che ci vogliono vendere gli orologi piuttosto che altri oggetti, le borse firmate. La domanda è: sto facendo un vero affare oppure non lo sto facendo per niente? Cercheremo di rispondere oggi raccontandovi la vita dei ciarlatani, perché probabilmente i ciarlatani sono nati proprio in Italia con Cagliostro. Non lo dirò io, però vedremo che cosa ci racconterà Raul Cremona, che sarà il nostro ospite di oggi, esperto in questo senso perché è un grande collezionista anche di libri antichi. E in questa puntata del Riposo del Guerriero, più tardi parleremo ancora una volta con Fables, vedremo di raccontarvi un po' il mondo del marketing non convenzionale, e poi alle 11.45 ci occuperemo di videogiochi. Partire come Neguzzi con questo vero falso, perché di questo parliamo, e forse a rappresentare proprio, diciamo così, il ciarlatano per antonomasia c'è lui. Con la sola imposizione delle mani posso ungervi la giacca e la cravatta. Io sono medium, large, extra large. Io credo nella reincarnazione, lo vedi questi unghi? Si sono reincarnati 5 volte. E ridi, vai fuori a vedere se c'è ancora lo stereo nella macchina, va? Che arroganza, che ignoranza, che volgarità. E infatti, ciao Raul, buongiorno. Schifo. Quanto c'è di Oronzo dentro di te? Tanto, soprattutto la mia esperienza giovanile, devo dire che per tanti anni ho convissuto con tanti Oronzi, li ho somatizzati, li ho interiorizzati e poi li ho rigenerati. Però non ti hanno fatto crescere la pancia, questo no, va bene. Questo va bene, però la voglia c'era, perché poi emulando le gesta di questi personaggi, tanti veramente in questo quartiere popolare che io ho praticato da giovane, erano... Ognuno regalava un pezzo di quei difetti che poi sarebbero diventati il personaggio. Anche qualche cornino hai mantenuto? Sì, anche quello, su tutte le mie cose. Meno male. Allora, oggi parliamo di ciarlataneria, sì. Che è un termine di solito associato a una, così si associa alla negatività. Un ciarlatano è qualcuno c'è da dire una cosa, che non è una parola non chiara, nel senso che tutti la usano. Ciarlatano è una parola denigratoria. Uno che mente, sì, esatto. Uno che mente, uno che parla, uno che... In realtà la parola ha due radici, ha il suo significato in due radici. Una è ciarliero, quindi uno che chiacchiera, parla. Cioè. E l'altro è cerrettano. Cerrettano vuol dire che proviene da un paesino dell'Umbria che si chiama Cerreto, non so se a Spoleto o Orvieto, non sarebbe facile definire, perché in tanto tempo fa, parliamo di 4-5 secoli fa, una bolla papale dava la possibilità a tutti questi questuanti di girare per l'Europa potendo chiedere la questua, cioè chiedendo dei soldi, quindi praticamente avevano il beneplacito del Papa per poter andare in giro a elemosinare. Da lì sono nati questa gente che lasciò Cerreto e si sparse nel mondo praticamente. E quindi vendendo se stessi, vendendo qualcosa, vendendo di loro, un'infinità di caratteristiche, sì. Tipo, che ne so, c'è un libro bellissimo si chiama La Sferza dei Bianti, nel quale viene spiegato come ogni ciarlatano, come ogni cerrettano, perché lì non siamo ancora ciarlatani, siamo cerrettani, ha una sua particolare attività. C'è chi esibisce le pustole, c'è chi si finge di essere sì. E poi tra l'altro sono ancora in giro. Tu quando vedi uno per strada che ti fa vedere un arto tagliato, in realtà è un discendente di questi cerrettani. Certo. O chi si fa venire per esempio degli attacchi epilettici in mezzo alla strada, oppure chi rimane sdraiato, svenuto. Ognuno di questi mendicanti chiedeva poi alla fine dei soldi, e ognuno si sviluppava delle proprie caratteristiche. La caratteristica di essere cerrettano, quindi provenire da Cerreto Umbro, andare in giro, chiedere i soldi e parlare, ha fatto sì che questa unione di queste due attitudini portarono il ciarlatano, perché la fusione fra ciarliero e cerrettano, a salire su un banco, da cui la parola salimbanco, che noi diciamo saltimbanco, esatto, ma anche sì, salimbanco, perché sì. era solito lavorare su un tavolo. Il tavolo si rialzava fra la folla, un piccolo palcoscenico nel quale lui poteva esibire la sua mercanzia. Di solito il ciarlatano vendeva delle panacee o dei rimedi universali. Dei rimedi, certo, per qualunque tipo di malattia. All'epoca si chiamavano orvietani, perché venivano sempre da quella parte. L'orvietano era una boccetta nella quale che conteneva un balsamo che guariva qualsiasi male. Ecco, non so se ce l'hai nella borsa per caso. Dai un po'. Il riposo del guerriero. Continuiamo con la nostra chiacchiera, appunto, sta bene questa parola, sì, oggi questa ciarlata con Raul Cremona. Allora, siamo partiti da lì, quindi, sì, da questa finzione. Partiamo da lì, mettiamo insieme queste due caratteristiche, nasce il ciarlatano. Il ciarlatano esibisce e vende i propri prodotti su un banco, quindi sale in banco, lavora nelle fiere, lavora, non so, a Ponte Nuovo a Parigi, e praticamente dimostra che queste sue panacee risolvono qualsiasi problema. Le dimostrazioni che dà sono al confine fra l'illusionismo e la... Ecco, perché succedono due cose. La prima è, mi chiedo, questi che così si facevano venire degli attacchi, sì, diciamo epilettici, no? In qualche modo per strada, quanto ci fosse di finto e quanto ci fosse di vero? Io penso che sia stato tutto creato, inventato. Beh, molto era finto. È una recitazione di conseguenza. Una recitazione da strada che però appoggiava le radici in quella miseria umana, certo, che non ci appartiene in più. In qualcosa che accadeva realmente. Qualcosa che accadeva realmente, comunque giustificava l'intento di chiedere dei soldi, certo, quindi da questo. Di solito il ciarlatano nella tradizione classica si fa mordere da una vipera, sì, e poi dimostra che la sua panacea, il suo orvietano funziona. Ecco lì invece, appunto, arriviamo nella dimostrazione che ciò che viene venduto funziona, sì, che è quello che troviamo oggi nei mercati. È lo stesso principio, non è mai cambiato. In sostanza, un venditore deve sempre salire un banco, e che i banchi sono cambiati, sì. Una volta erano i banchi di Ponte Nuovo, adesso possono essere le stesse stazioni radiofoniche, invece una televisione. In realtà il venditore o il parente stretto del ciarlatano opera in maniera similare, non è diverso. Allora questo orvietano che lui usava per guarire, in realtà si avvaleva di piccoli trucchi. La vipera non era una vipera, ma era un marasso palustre, il quale morde come una vipera, però non è velenoso, cui l'orvietano non produceva nulla. Oppure tutti quei rimedi basati sull'effetto placebo, perché poi il ciarlatano praticava tutte quelle arti connesse al ciarlatanesimo, cioè l'ipnosi e anche quella scienza. Qui arriviamo al punto fondamentale: quella scienza, quella pseudoscienza o quella pratica magica spagirica che era all'inizio della medicina o all'inizio della chimica, che si avvaleva di una conoscenza, diciamo, occulta, per esempio l'ipnosi, per esempio l'imposizione della volontà, e quindi era un guaritore, era un taumaturgo. Il ciarlatano era tutto questo. Ora la parola sta a indicare uno che vende menzogne, sì, esatto. Ma all'inizio l'accezione più corretta, poi io qua premetto, non sono uno studioso, quindi quello che dico l'ho letto, posso anche sbagliarmi, quello che lui faceva era quello di esercitare una conoscenza occulta, una medicina popolare, una medicina che atta a guarire in un'epoca in cui ancora i ruoli non erano ben definiti. Oggi se uno mette un ferro in bocca e fa il dentista lo arrestano subito se non è laureato in medicina. Una volta invece spesso il ciarlatano era anche un cavadenti, cioè oltre a venderti l'orvietà faceva vedere un gioco di prestigio tagliandosi magari un braccio con un classico gioco del coltello che taglia il braccio e poi ti cavava i denti. Ma lo faceva sul serio? Sì, lo faceva veramente, e su quei banchi. Quindi strappava proprio i denti con la sì, pinza? Sì, perché poi tu devi capire che i dentisti non ce n'erano, ma per certo. Cui la gente andava dal medicone. Ecco, un termine giusto per indicare un parente stretto del ciarlatano, il medicone. Il medicone è uno che guarisce, ancora oggi si ricorre ai mediconi. Poi i mediconi sono diventati magari astrologi, sono diventati sì, quelli che poi sono gli sciamani. Sciamani, ah. Sì, nel Medioevo, tu devi sapere, fino nel 600, tutta questa conoscenza occulta o comunque tutta la capacità di guarire o di aiutare era in mano a questi ciarlatani, a questi mediconi. Quindi la parola giusta sarebbe non tanto colui che si nutre di menzogna o che vende la menzogna. Il ciarlatano sta a indicare più praticone della conoscenza. Sì, quindi quello che conosce, quello fa che conosce, e ti può aiutare, puoi dare una mano. Mago, potrebbe essere sì. Anche mago, cioè tutte queste parole si imparentano perché tutte traggono nutrimento da una conoscenza popolare che può essere la magia, può essere lo spagirismo, può essere l'alchimia, può essere l'ipnosi, atte a realizzare su chi necessita la conoscenza sì. Che lui userà per guarirti, per toglierti il male, per risolvere certo, il problema. Poi la prima cosa è che ti deve illudere di sapere tutto e di curarti davvero, così tu ci credi per primo e quindi forse poi funziona anche qualunque rimedio. E la verità va cercata nella piazza, nel senso che la piazza è l'accettacolo della cultura popolare nel quale confluiscono tutte le genti, per cui la società non era strutturata come oggi, ma nella piazza, che era il centro focale della vita, tutte le persone vi si recavano per vendere, scambiarla e per certo. Incontrare tutto ciò che appartiene. Ora tu vai in un gabinetto dentistico, una volta andavi nella piazza avresti trovato un cavadenti oppure un ciarlatano. Ecco, nella piazza ci si torna anche ai giorni nostri, sì. In questi giorni in modo particolare, ci sono tre personaggi che stanno tentando di ribaltare le cose, fondamentalmente stanno cercando di mettersi insieme per riuscire a cambiare forse le sorti di questo governo. Sono Bersani, Fini e Vendola, e io insieme voglio farveli ascoltare perché hanno in mente di fare qualcosa di molto preciso. Avete sentito? Giravoce che Berlusconi ne stende altre 40 e poi si ritira. Non ce la fa. E invece ce la deve fare. Pierluigi, qual è il piano? Se per andarsene gli servono 40 gnocche, procuriamogliele. Pierluigi, ma ti metti a fare come le lemura. Ma per la causa, amici. Come faremo? Chi ce l'ha i soldi per pagarle? Avete dato un'occhiata ai prezzi? Dobbiamo reclutarne fra le nostre. La gnocca sinistra? Mi spiace, ma non c'è. Guarda che anche le feste dell'unità c'è un certo giro, lascia fare. La Melandri, che dici? Gliel'ho chiesto, ma lei non ci sta. Dice che non è il suo tipo. A fine chiaro? È fuori target. Tu Gianfranco, per caso non è che hai ragazze giovani nel partito? Ma che poi da me sono tutti uomini. Ho la Prestigiacomo, ma lei Berlusconi non lo può manco vedere più in foto. Ma lasciamo stare gli esponenti di partito, poi a lui piacciono le donne di spettacolo. Non abbiamo qualche soubrette da mandargli? La Ferilli, e dici che se lo fa quel sofà? Ma Sabrina, lasciatela in pace, poverina. E poi Berlusconi è del Milan mentre lei ti fa Roma. E chi sappiamo noi? La Dandini, la Mannoia, ma non vanno bene, non sono il suo tipo. Queste parlano. Invece lui è per il fare. Elisabetta lo farebbe? Sei scemo? Vabbè, dai, per la causa. Posso chiedere se ha un'amica? Certo che arrivare a 40 è dura, non siamo neanche arrivati ad una. Difficile infatti, Paolo Mariconda, buona domenica. Buona domenica a voi. Ciao Paolo, tu sei il capo autore degli Sgommati, da lunedì al venerdì alle 21 su Sky 1, comunque continuamente replicati col tasto active, se avete Sky sapete di cosa sto parlando. Allora, beh, i miei complimenti personali ve li faccio per l'intelligenza delle battute. Anche da parte mia. Di Raul Cremona che rideva mentre ascoltava e grandi complimenti anche alla sigla inizia. inizia con una sorta di partita di bullying. Ogni birillo ha la faccia di un rappresentante della nostra politica, a destra, a sinistra e al centro ci sono tutti. Le loro frasi dicono: io sto a sinistra perché non mi beccherà mai, ma io sono qui quindi non mi toccherà. Invece poi c'è uno strike e tutti vanno a terra. Esatto, perfetto, l'hai descritta perfettamente. È perché forse nella sigla voi raccontate esattamente quello che succede. Paolo, quanto è difficile, forse non troppo, cercare testi quotidiani che riescano a far sorridere della nostra politica, della nostra quotidianità? Ma guarda, allora, la difficoltà, adesso posso dire una cosa che magari si sente dire spesso, no? Nell'ambiente tecnico di chi scrive per la satira, che ahimè la realtà a volte va così oltre anche l'immaginazione di quanto un autore di satira possa comunque immaginare, che magari quello che tu scrivi pensando sia una gag, ossia un fatto completamente spiazzante rispetto alle possibilità reali, e invece magari il giorno dopo lo senti proprio dire dalle bocche o vedere dei personaggi politici. Quindi un po' questo è continuamente fuorviante, si è talmente alzato il tiro del grottesco nel reale, che la migliore parodia potrebbe quasi essere quella di una incredibile serietà dei personaggi, cosa che ovviamente non... Scusa se ti faccio una domanda, un comico diceva: basta salire sul palcoscenico, aprire un giornale e hai già in mano un testo per far ridere la gente. Sì, diciamo quello che succede. Una volta era così, adesso è quasi, sì, è vero, nel senso, anche adesso forse è ancora più così, leggi il giornale, è molto più comico il testo di un giornale che, certo, che magari altro, però noi ci sforziamo ogni giorno e diciamo, quindi c'è materia, c'è tanta materia, c'è molta ricchezza di diciamo, di materiale sul quale lavorare. Paolo, quanti siete a lavorare come autori? Dunque, siamo un fortissimo gruppo di persone, di collaboratori di vario genere, io sono alla guida del gruppo, sì, autorale, con me c'è come collaboratore Paolo Rossi, Gianluca Velardi, Saverio Raimondo, Pietro Iona, poi ci sono vari giornalisti, di varie testate giornalistiche, dell'arco, tutto l'arco parlamentare. Certo. Diciamo per tenerci un po' informati, per avere delle dritte. Abbiamo sicuramente, guarda, è domenica mattina, quindi sicuramente scorderò qualcuno, insomma, cioè fare battute, sono vari collaboratori. Senti Paolo, perché Carlo degli Esposti, che è il produttore, diciamo, che è più che altro veramente lui è il condottiero che ha guidato questo progetto fino alla realizzazione, ecco. Perché Bersani, lo spiego per gli ascoltatori che non hanno magari mai visto Gli Sgommati, i personaggi sono ovviamente dei pupazzi di gomma, per cui ecco, perché si muovono, molto espressivi, devo dire veramente identici ai reali, chiaramente sono un po' caricaturati, però è così, e c'è Bersani che è costantemente in bianco e nero, mentre tutti gli altri sono a colori, ma perché non ha ancora trovato la sua strada, perché è in bianco e nero? Beh, diciamo è un po' il grigio, il non colore di Bersani, più che il biancheretto, è un non colore preciso, una perdita un po' di quello che poteva essere a volte un colore che io non cito, ma comunque sì, insomma, un colore che non c'è più, giusto? Un colore un po', ecco, un colore indefinito, quindi un colore in bianco e nero, andiamo sempre più verso il grigio. Certo, ecco, ogni volta poi trovate anche dei personaggi nuovi, è apparsa la Gelmini la settimana scorsa, se non mi sbaglio, con le sue lezioni su YouTube, perché poi la Gelmini è ormai così comunica attraverso YouTube per usare un mezzo usato chiaramente, sì, dai ragazzi, e poi insegna delle lezioni di sadomaso, cioè lei è vestita a sadomaso nel posto. Sento Raul che ride, eh? Esatto, ma ce n'è un altro. Ci conosciamo io, sì. Raul, che lui magari c'è un trascorso, diciamo, un trascorso di cabaret con lui, diciamo, vabbè, poi fuori trasmissione lo dirò. E dopo, ecco, quando ci incontriamo, magari anche fuori ci ricordiamo tutto. Ecco, no, mentre io cercavo di, perché mi veniva in mente una cosa. C'è un altro personaggio che così comunica attraverso i video. Malala, malala, malala, malala, ammala Boccassini comunista, ammala giudici incompetenti, ammala postribolo, ammala Forza Milan. Senti Paolo, ma nessuno si è mai lamentato? Perché secondo me fa sorridere anche gli stessi protagonisti. Sì, diciamo che no, è appunto, no, dico, la risposta è no, nessuno si è mai lamentato e fino adesso. Sì. E, beh, preparatevi che qualcuno si lamenterà. Se facesse sorridere, beh, io non lo so, insomma, l'obiettivo della satira è quello di far arrabbiare, no? Sì. Oppure di far riflettere, oppure ecco, di far riflettere duro. Sicuramente far riflettere secondo me sembra la cosa più giusta, ecco. Però anche io poi insomma sono attento perché ho a volte le critiche dei giornali insomma giuste e sagge, perché anche esperti insomma vogliono la satira graffiante e io lo capisco ed è giusto che sia così, però a volte un po' di leggerezza magari non guasta, ecco. In questo caso la scelta è proprio editoriale nostra del programma, sì, di colpire duro, ma di avere comunque, di mantenere un certo stile leggero di sorriso su un ambiente che in realtà già è abbastanza violento e aggressivo. Secondo me tra l'altro quella è anche la satira davvero più intelligente, quella apprezzata davvero da qualunque parte si stia. Questo è un genere praticato molto da persone che sono scese in campo, quindi si è trattato di satira graffiante tanto. Quella leggera invece è un po' più longeva, un po' più difficile forse. È molto più difficile da scrivere, e quindi complimenti. È più difficile, a parte i complimenti, grazie, io messo, poi, insomma abbiamo appena cominciato, quindi con umiltà abbiamo da imparare da sia dai programmi precedenti fatti dai pupazzi. Infatti la mia ultima domanda poi è proprio riferita a quello, scusa ti faccio concludere. Noi, tutto il gruppo sta cercando di calibrarsi anche con questo genere che è la satira e con i pupazzi che è comunque una materia proprio specifica, artistica, un po' particolare, che esula da ciò che appunto è un attore, quindi non c'ha delle espressioni, non c'ha dei grossi movimenti, quindi devi sempre inventare, cercare di nuove soluzioni. E però appunto il tentativo, lo dico poi e chiudo, è quello di essere sì graffianti, cattivi, però anche un po' leggeri, ecco, diciamo è proprio una scelta, una ricerca che stiamo tentando di fare, vediamo se pagherà o meno. Comunque speriamo di quello sì. Che stiamo cercando. Sono convinto che sia così. L'ultima domanda con la quale volevo concludere è questa, Paolo. Voi avete bussato alle porte, immagino, di tutte le reti televisive, avete trovato spazio a Sky. Mi sbaglio? Cioè, avete provato veramente tutte o vi siete rivolti direttamente a Sky e basta? Curiosità mia. Questa è una risposta che potrebbe darti di più il produttore. Ah, ok, va bene. No, per capire gli spazi dove sono, perché così è quello, è lo spazio di Sky. Televisione, cerchiamo di capire. Non è lo spazio delle altre reti, no? Sicuramente Sky è da come si dice, sono romano, tanto di cappello. No, ma indubbiamente. Comunque io adesso non ho seguito direttamente le operazioni di produttive di vendita del prodotto, però comunque tanto comunque qualunque cosa sia accaduta, Sky 1 l'ha accolta veramente con un abbraccio largo. Sicuramente la mia curiosità era rivolta, insomma, la proposta anche alle reti invece insomma più famose, più conosciute, perché parliamo di numeri alla fine, e capire qual è stata la risposta, perché comunque secondo me il programma è particolarmente intelligente, quindi andrebbe bene dappertutto e ce ne fossero di programmi così. Grazie Paolo Mariconda. Ciao Paolo, a presto. Ciao. Lo ricordo, il capoautore degli Sgommati, lunedì e venerdì alle 21 su Sky 1. Tu hai provato a infilarti sotto un camion per partire? Ancora no, facevo paura. Pensi che lo farai? Sì, perché voglio entrare in Italia. Non hanno studiato. Chi studia almeno sa cosa serve la pace e che cosa è la guerra. Sono talmente tante le cose che ho sentito, visto, che se non riuscissi un pochettino a mettere uno spazio tra me e questo vissuto così forte, non ce la farei. Radio 24 accende i riflettori sulla grande attualità internazionale. Io sono Giampaolo Musumeci. Ogni giorno farò ruotare il mappamondo e vi porterò in un luogo diverso per scoprire che dietro ogni notizia c'è una faccia, una voce, una storia. Tutti i giorni alle 13.15 qui su Radio 24. Nessun luogo è lontano. I prezzi sono già bassi! Non basta! In agosto noi di Expert vogliamo i sottoprezzi! Come la lavatrice Grandò Candy, 7 kg di carico, centrifuga 1400 giri, in classe A+. Che costa solo 299 euro. Expert. Gli esperti siamo noi! Vedi regolamento nei punti vendita aderenti. L'epilatore no! Sì, sottoprezzo anche quello! 01 Distribution, Massimo e Vanessa Ferrero presentano. Sei il migliore. Ha sempre lavorato da solo. Mi dispiace per tuo padre. La vendetta li ha uniti. Voglio imparare il tuo lavoro. Jason Statham, Ben Foster e Donald Sutherland. I lavori perfetti sono quelli in cui nessuno si accorge di te. Professione assassino, dal 24 agosto al cinema. Matteo mi ha detto che nella sua classe c'è un bambino strano. Non parla, si siede in un angolo e non gioca mai con gli altri bambini. Non è un bambino strano, è un bambino autistico. Chi soffre di autismo, senza le giuste terapie, può solo peggiorare. Per migliorare la sua vita serve molto tempo e personale specializzato. Se vuoi aiutarlo, vai sul sito www.iltesororitrovato.it. Il riposo del guerriero. Sempre Radio 24, Riposo del Guerriero, ancora buona domenica da Stefano Gallarini e adesso sta arrivando a darci una mano un uomo in tuta blu. Signori e signori! Le signore? Signorano! Io dico l'homme le l'homme, la donna le la donna, giusto? Giusto! Un giorno Dio creò la terra e vide che era una cosa bella. Poi creò la natura e vide che era una cosa bella. Poi creò gli animali e vide che era una cosa bella. Poi creò l'uomo e vide che era una cosa bella. Poi creò la donna e disse: si truccherà. E allora, via. Diciamolo apertamente, signori. Diciamolo senza parole. Giusto? Giusto! Giusto! Omen da dove nasce? Bah, diciamo che Omen anche lui è un ciarlatano. Ma dai. Ma nasce da quella tradizione popolare. Beh, forse un po' meno degli altri miei personaggi, perché è un personaggio reale. Però è sempre un po' un banditore, no? Cerca sempre di. Sì, certo, anche lui sale il banco e cerca di stigare la folla perché vuole vendere la sua soluzione. La sua soluzione è la visione del suo mondo, il mondo come non c'è più, sì. Un mondo nel quale l'uomo era l'uomo, la donna era la donna, non si capacita del perché il mondo è cambiato così velocemente. La tuta sta a indicare che appartiene evidentemente ad uno strato sociale, certo. È uno operaio, però è quell'operaio eternamente arrabbiato con una realtà che si modifica oggi, ma era già negli anni 60, entrando nel bar vedeva la donna giovane con la Mini Cooper e si domandava: ma sta qui i soldi, da dove li prende? Per cui dentro a questo tormento c'era la voglia di capire: ma perché il mondo è il Weinstein al contrario, perché non è come lo dico io? E allora elabora una sua teoria sulla quale non si discute, e che è la superiorità dell'uomo sulla donna. E poi c'è la realtà dei fatti quando torna a casa. Sì, la realtà dei fatti, che poi questo parlare, questo ciarlare si riduce ad essere semplicemente uno sfogo che poi alla fine lo riconduce alla realtà di sottomesso, di perdente, perché è essenzialmente un perdente, ma nell'esercizio del suo sfogarsi è un tribuno del popolo, è quindi un ciarlatano, un oratore. Ecco, voi dovete sapere che Laura ha una grande passione. Innanzitutto a volte mi chiedono, quando sanno che ci conosciamo, mi chiedono: ma Raul è anche un mago? Oppure io dico: soprattutto lo è davvero, cioè nel senso che è un grandissimo. E sono anche presidente del clan, il circolo Arte Magica. Sono prestigiatore da tanti anni, dal 1973. Dopo tanti anni sono diventato presidente del circolo che praticavo quando ero ragazzino e sono, per chi mi conosce, un abile prestigiatore. Esatto, no, lo dico perché in realtà poi quando ti si vede con i personaggi, qualcuno fa anche perché delle appartengo illusioni. A quella categoria di ciarlatani che devono esibirsi in 4 minuti, e siccome il teatro è la verità mentre il cinema, la televisione, la finzione. In teatro si può assaporare meglio, è vero, per la verità, invece certo. La televisione diamo una sintesi che però all'occorrenza è quella più riduttiva, quella che mi serve per tirare a campà, perché pure io ho bisogno di lavorare, ho tanto bisogno. No, qui poi apriamo una parentesi che voglio chiudere subito. Ormai c'è moltissima comicità in televisione, sì, ce n'è tantissima. Pure troppa. Ecco, pure troppa, è vero. Però posso dire questo, che sono poche le persone che riescono poi a sostenere un palcoscenico, sì, quindi uno spettacolo di un'ora e mezza, per esempio, e invece sono molti quelli che riescono a sostenere 5 minuti e poi hanno finito il repertorio. Infatti, loro si godono questi due anni di popolarità, ecco, e poi bisogna capire la differenza. Dopo, per andare avanti in questo mestiere, bisogna garantire delle verità, tipo il teatro, che era teatro, ti può scritturare, ti può regalare una stagione, delle date, poi però quando sei di fronte ad un pubblico, magari di un teatrino anche in una città di provincia, sì, però un pubblico attento, un pubblico silenzioso, magari in uno spazio anche non facile da gestire, lì non ci sono trucchi, non, esatto, c'è, non ci sono risate false, c'è solo la professionalità, solo e tutto quello che si ha alle spalle, il repertorio e la, certo, tua bravura. Torniamo ai nostri ciarlatani, sì, insomma, dovete sapere che Raul è un grande studioso di questo, tu hai tantissimi libri e scusatemi, non lo so qual è il tuo volume, perché eccolo, ho trovato, mi fa tutti i gesti. L'ho trovato. Sei un collezionista di libri antichi, sì, e sei uno studioso proprio di quella che è la storia del ciarlatanesimo, diciamo così, tutto italiano. Vogliamo partire da un personaggio che forse molti conoscono, che è Cagliostro, sì, perché chi ha visitato la Rocca di San Leo vede anche la Cagliostrina dove fu la cella dove fu praticamente incalato dall'alto, esatto, verso il basso, sì, per evitare che potesse fuggire, sì, in quanto la sua credibilità di ciarlatano e di mago creava terrore, per cui per isolarlo lo calarono dall'alto verso il basso e morì in quella cella, sì, poi la leggenda continua. Cioè, Cagliostro, che dire, è un personaggio estremamente moderno. Perché moderno? Perché nasce pur nascendo nel XVIII secolo, riesce a dimostrare di avere una capacità di evolversi e quindi di crescere al di là delle strutture dell'epoca. Una volta, se eri nobile, se appartenevi ad una casta, potevi essere qualcuno. Cagliostro invece dal nulla assurge ad essere un grande taumaturgo, un grande mago, in un'epoca che si incanta a vedere il meraviglioso, in un'epoca in cui ha bisogno di credere nell'aldilà, di credere in manifestazioni, proviene ancora da un'epoca in cui con l'illuminismo si arriva alla scienza, però ancora questa scienza è intrisa di magia, ecco perché in quell'epoca sorgono tanti prestigiatori, tanti illusionisti, Pinetti per fare un nome, e Cagliostro che lo precede ancora è a cavallo fra la magia e fra quel ciarlatanesimo che poi incanterà fino ad arrivare ad oggi la gente. Lui, le sue verità colpiscono i grandi, i potenti, i ricchi. Lui è taumaturgo, ipnotista, guarisce, risorge, addirittura ha risuscitato dei morti. Quindi moderno perché da solo riesce ad imporsi al di là della casta, è un po' vicino a Napoleone, siamo nell'epoca, sì, Napoleone, siamo alla fine è un caporale, 700. Diventa un imperatore, questo è un ladro, se possiamo dire così, perché anche lì ci sono due scuole di pensiero, c'è chi crede che ciarlatano, che Giuseppe Balsamo, cioè il suo vero nome, fosse, sì, un personaggio e Cagliostro fosse un altro, in realtà, no? Tutti sanno che Giuseppe Balsamo sono le radici di Cagliostro. Giuseppe Balsamo è un truffatore, è un ladro, viene arrestato tante volte, per truffa, prostituzione, per raggiro, poi dopo quando scopre la sua vera identità, quando finalmente attraverso il rito della massoneria egiziaca lui dimostrerà di essere un grande cofto, un grande maestro, allora forse dentro di lui si convincerà che c'è una rinascita, e questa è la modernità che lo trasforma in uno schiavo del suo personaggio, diventerà un mago, diventerà un potente, un consulente dei grandi, un uomo che stupirà il mondo, e allora forse rinnegherà il passato di truffatore per dedicarsi anche a guarire i malati, ad essere umanamente, però fortemente attraversato da questo ego espanso che vuole, che fino a quando poi cadrà nelle mani dell'Inquisizione e dovrà fare i conti con... Ecco, dietro la forza di questi personaggi c'è sempre un ego così smisurato? Indubbiamente, sì. Ciarlatano è un uomo che dice: io nella vita sono meglio degli altri, io però non ho studiato, io studierò qualcosa che gli altri dovranno studiare su di me, si inventa una verità, si inventa una personalità, possiede una grande personalità. È il caso di Cagliostro, un grande taumaturgo, un grande guaritore, riesce a guarire chiunque, per questo tutti diventano ammiratori di Cagliostro, perché c'è gente che ha avuto benefici da lui e quindi lui continua a avere dei lasciti, diventa ricco, costruisce la più bella casa a Parigi, riceve i potenti, ed è una caratteristica del ciarlatano ancora oggi. Lui è moderno perché comunque anche i ciarlatani di oggi hanno preso e hanno imparato dalle lezioni di Caruso. Ecco, infatti voglio arrivare a lì, cioè mi fermerò un attimo, andremo so dove nel vuoi arrivare, dove ma arrivare, cerca di essere molto delicato in questo sarò argomento. Delicatissimo, ma è solo perché così una chiacchierata che voglio fare con te. Non si può parlare in questa no, devo stare attento adesso, chissà cosa mi succederà. 10:45 gli aggiornamenti, io sono curioso, lo sai, gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Riconoscere gli autentici falsi, questa è la puntata di oggi. Raul Cremona ospite in studio. Intanto vi ricordo il numero per i vostri messaggi: 349-238-6666. Prima di continuare a parlare con Raul, io vorrei capire se c'è anche una metodologia. Flavio Pagano, buona domenica. Buona domenica a voi, salve. Allora Flavio, salve. È autore di un libro. Io partirei da una bellissima frase del ministro Livio Toscani. Sì, che dice: l'ultima cosa che mi interessa è la verità. Eccola. Naturalmente lui si riferiva all'aspetto creativo, certo, diciamo, della vita e del pensiero, mentre oggi ci troviamo di fronte a un concetto della verità molto più becero, diciamo, e della bugia. Sì, e no, per capire, perché appunto che cosa hai scritto, che è il manuale del perfetto bugiardo, quindi sì. È un manuale per esserlo, ma esserlo in che modo, Flavio? Manuale per esserlo e per scoprire anche chi abbiamo di fronte e ci mente, diciamo, c'è una classificazione di tre tipologie di bugiardo: il Pinocchio, sono, il Morone di Munchausen e l'Ulisse, che sono nelle quali rientra, direi, tutta l'umanità. Naturalmente un tempo le bugie, se così vogliamo chiamarle, facevano nascere miti, no? E c'è la bellissima bugia di Ulisse che dice: mi chiamo nessuno, a Polifemo. Oggi la bugia, come accennavamo anche prima, ha, diciamo, obiettivi molto più mediocri. Comunque nella vita quotidiana, dalle corna, diciamo, a quello che vediamo intorno a noi, dalle più alte sfere proprio dei governi fino alla nostra vita quotidiana, la bugia è ovunque, è un indicatore anche un po', se vuoi, dei costumi della società. Da quello che ci sta raccontando anche Raul, la bugia ovviamente c'è sempre stata, lo sapevamo, però è interessante certo. Sapere come a volte è stata mistificata ed è stata utilizzata proprio per accrescere anche il proprio ego, la propria personalità e per diventare anche famosi. Allora, il tipo Ulisse, da quello che mi viene da capire, è la bugia intelligente, cioè quella che ci aiuta a uscire politica, da una situazione difficile. La bugia positiva, pragmatica. Quella che ha uno scopo concreto che viene raggiunto, diciamo, è il bugiardo più efficiente. Si fa anche qualche esempio nel libro, e naturalmente i politici sono sempre il bersaglio preferito. Anche quello più facile, no? Ecco, per quindi non sono l'esempio. Facile, il bersaglio grosso in qualche modo. Fini, ecco, veniva indicato per esempio come un eccellente Ulisse, non so come si sta adesso comportando, ma senza entrare poi nel live, perché poi qui se no alimentiamo un altro tipo di discussione. La bugia, tipo quella di Pinocchio, com'è? La bugia fine a se stessa, invece? Quella è la bugia infantile, sì. Quella è la bugia buona, la quella bugia quasi innocente, ecco. Quella dei bambini, sì. Che molti psicologi associano anche a un livello di intelligenza notevole, perché appunto, come tornando da dove siamo partiti, è un elemento che esprime la creatività. È una bugia che colora il mondo, diciamo, che aumenta le opportunità. Ecco, invece. Scusami, è invece la tipologia Barone di Munchausen, forse quella più difficile da... sì, quella lì, naturalmente tutti conosciamo, diciamo, le meravigliose bugie letterarie, certo, del barone, atomiche, storie, veramente. No? È una bugia tipicamente maschile, forse l'esempio migliore è quella dell'uomo che corteggia una donna, che cade spesso, diciamo, nel Munchausen, quello spettacolo di arte varia, come lo chiamava. Come piace in fondo a noi. E poi ancora, volevo capire, tu nelle regole che citi nel tuo libro, c'è anche quella di negare sempre, negare anche l'evidenza. Sei proprio d'accordo su questo? Certo, diciamo, le cose vanno portate a compimento, quindi siate inossidabili. Cioè, se hai mentire, se hai iniziato, negare, devi pratichi quella strada, devi andare devi avanti fino in fondo. Mai ammettere. I bugiardi riescono anche a dire la verità, secondo te? ma per un vero bugiardo secondo me la differenza non esiste. C'è chi dice che bisogna raccontare una bugia, la bugia deve essere incredibile, non deve essere bravo, deve essere talmente esagerato. Questo l'ho sostenuto anche io nel libro, non bisogna essere, diciamo, tiracchi. Se uno deve spararla, la deve dire grossa, è facile credere a una. Infatti, ripeto, insomma, le bugie che spesso ci circondano, che danno questo indicatore, diciamo, un po' deprimente forse del livello di creatività. C'era un illusionista, scusa se interrompo, un illusionista dell'Ottocento, il quale sosteneva che con l'etere, allora era l'epoca dell'etere, somministrando un po' di etere a suo figlio, questo poteva volare. È una bugia immensa, però la gente credeva che l'etere potesse veramente... Anche perché faceva poi le imitazioni in scena, per cui... Questa è meravigliosa, questa è molto Munchausen, diciamo. È artistica. Sono quelle bugie consolanti, no? Che aprono prospettive, certo. Poi che sia vero o non sia vero, insomma, fanno sognare, è una cosa importante. Ecco, Flavio, io chiudo con questa domanda: che è più facile mentire alle donne o agli uomini? Sicuramente agli uomini, infatti le donne hanno ottimo gioco, mentre mentire alle donne, diciamo, solo una donna innamorata cade nelle bugie, ma una donna sobria non ci cade. Non riesce. Grazie. Posso accennare solo come una cosa? Sì, come, certo. Un nuovo libro. Su un argomento totalmente diverso. Ragazzi ubriachi. Una storia vera di adolescenti, diciamo, cadono nell'alcolismo. L'ho voluto accennare perché è un argomento proprio cogente, diciamo, di questi giorni. Sicuramente lo è. E lì forse le bugie ne fanno parte in qualche modo. È quello che stavo per dire. Certo, grazie Flavio Pagano. Grazie a voi. Ciao, Flavio, grazie a voi. Ciao. Saluto a Cremona. Ciao. Autore anche del manuale del perfetto bugiardo. E continuando con la nostra. È interessante questo libro perché sicuramente sì. Sarà anche qualche piccolo segreto. Per i prestigiatori da rubare, insomma, da mettere. Perché da rubare, i prestigiatori sono sempre bugiardi, sono stati molto mistificati. Allora, no? Una tecnica del prestigiatore è la menzogna. In che senso? Lui esalta la menzogna, la espande per affozzare nello spettatore che ascolta delle verità che non esistono. Certo. Per esempio, io ti faccio scegliere una carta, te la tocchi fisicamente, però a distanza di 30-40 secondi io non mi riferirò a quella carta dicendo tu hai pensato ad una carta, in realtà tu la carta non l'hai pensata, l'hai toccata, però solidificando e ripetendo continuamente con ostinazione la carta che tu hai pensato, e io non posso sapere qual è la carta che tu hai pensato, si solidifica attraverso questa bugia la percezione che la carta sia stata pensata. Ora, se una carta viene scelta si può ritrovare perché fisicamente interagisce con la realtà, certo, il prestigiatore tocca, ma pensato vuol dire che io riesco a entrare nella tua mente per capirlo. Per farlo, siccome non posso indovinare una carta pensata, posso però simulare di averlo fatto. Per farlo dico una menzogna. Questa è la menzogna del prestigiatore, è una delle tante menzogne dell'illusionista. Ecco, solo che oggi diciamo che è più svelata questa parte dell'illusionismo, cioè si sa che c'è un trucco. Invece siamo in un'epoca, cioè se torniamo indietro nel tempo, in un'epoca dove le persone non pensavano che ci fosse un trucco, pensavano che fosse tutto vero. Indubbiamente. E arriviamo forse fino agli anni 70. Ma non è così, nel senso che oggi per esempio va in Inghilterra questo prestigiatore, va per la maggiore, Darren Brown, sì. Il quale utilizza ancora meccanismi ottocenteschi, l'ipnosi. Però lui forse dice che ci sono dei sistemi in realtà. Tutti i prestigiatori ammettono, ma questo non ha importanza, la gente continua a voler credere alla menzogna, cioè se io faccio il mentalismo, cioè la magia mentale, quella che è legata alla chiaroveggenza, alla telepatia, che è un'arte moderna perché ancora la gente ci crede, ci troverò sempre qualcuno propenso a dire in fondo, anche se io rivelo all'inizio che questi sono semplicemente trucchi, sì. Troverò sempre qualcuno che dirà però secondo me in fondo quello possiede una capacità, perché è proprio nella natura umana concedersi la voglia della bugia, cioè il desiderio di farsi raggirare. Ecco, siamo già quasi un po' arrivati, sì. Non dico la chiusura del programma, no, ma la chiusura dell'argomento, perché volevo arrivare a oggi, delicato. Quello è ancora oltre. Tra poco infatti parleremo, non subito, ti lascio preparare, parleremo di un personaggio molto discusso, certo, che è Gustavo Roll. No, ecco dove volevo arrivare, Gustavo Roll. Gustavo Roll è un personaggio straordinariamente moderno, devo essere sincero, però per gli studiosi, o meno per me, poi posso anche sbagliare, e non sono uno studioso, è imparentato con chi l'ha preceduto, e abbiamo parlato prima di Cagliostro, sì. Il quale aveva con lui in comune molte cose. Una di queste, prima di chiudere, che Cagliostro all'apice della sua popolarità non voleva essere pagato. E questa è una caratteristica del ciarlatano moderno, sto parlando di Cagliostro. Sì, sì, certo. Cioè lui non voleva soldi e questo faceva sì di rafforzare l'idea che facesse questo per inclinazione, sì, per natura, certo, per divina inclinazione. Sì. Anche Rola in comune questo non ha mai, ha sempre operato e poi vedremo come operava, perché prendo delle distanze, non voglio scendere e classificare. Stiamo parlando della realtà dei fatti. Operava senza essere pagato, quindi quello che lui faceva, quello che lui regalava, era un beneficio dovuto a questa straordinaria inclinazione che lui possedeva verso l'occulto, verso la possibilità di comunicare con Dio o col divino. Io sono la grondaia, diceva, parola straordinaria, che vuol dire molto, e poi dopo tu mi spiegherai. Continuiamo a parlare di questo tra pochissimo nel riposo del guerriero. Notte di mezza estate, feste improvvisate, diavoli alle chitarre, ma angeli sotto le stelle. Sogno di mezza estate, beati. Voi che entrate. Il riposo del guerriero. Le 11 e 6 minuti, sempre buona domenica da Stefano Gallarini, continuiamo il riposo del guerriero, stiamo parlando dei ciarlatani, sì, dei falsi, ma soprattutto di chi ha impiegato la vita raccontando una storia, diciamo anche questo, c'è Raul Cremona di fronte a me che di storie ne ha raccontate tante. Il re dei ciarlatani. Senti, prima sì, di tornare al nostro personaggio che è Gustavo Roll, sì, di cui abbiamo accennato sì, prima, e tutti i personaggi un po' ti appartengono, quelli che costruisci. Tutti i miei personaggi credo sono, sì, sono tutti personaggi che hanno a che vedere strettamente anche col ciarlatano, col mago, meglio ancora, Silvano, il mago di Milano, è la parodia di Silvan, in un certo qual senso esaspero tutto quello che nella parodia si esaspera il difetto, cioè per cui se per esempio uno ha una grande personalità, io la esaspero, per esempio posso immaginarmi che Silvan entrando a casa apre il frigorifero e il frigorifero lo applaude, è un'esasperazione un pensiero, no? Oppure guardate attentamente, signore, durante l'esecuzione dei miei esperimenti le mie mani non lasceranno mai le mie braccia, è qualcosa che tende a parodiare quella figura. Omen invece è un ciarlatano perché abbiamo detto prima è un oratore, quindi sì, vende, certo, una soluzione. Oronzo è re dei ciarlatani perché è il personaggio più ciarlatano in assoluto, in quanto tratta un argomento, e questo è tipico divino come la magia, che si occupa del divino, del trascendentale, e poi anche hai anche un personaggio trascendentale, sì, no? Che è Evok, esatto. Oronzo in realtà in un corpo così becero, in una realtà diciamo che maggiormente a certi livelli medio alti, signor, ma come cacchi scrive, cioè, il mago che non possiede il fascino è un ciarlatano, cioè non puoi millantare di possedere delle qualità quando invece sei unto, bisunto, non sei credibile, non sei prima credibile, ecco, ciarlatano non è credibile, diventa un ciarlatano, quando invece è credibile diventa è interessante. Ecco, torniamo a Roll, sì, personaggio estremamente credibile, ecco, da questo punto di vista. Mi vorrei subito dissociare, sì, dicendo che non sto parlando di Roll come un ciarlatano, no, in quanto tu sai che parlare di Roll vuol dire oggi, poiché la sua memoria è talmente viva, certo, e ha un'infinità ancora di discepoli e di, non vorrei in nessun modo, ma io non offendere coloro che credono, però ripeto, la parola ciarlatano abbiamo visto, esatto, prima che ha un significato diverso. In questo caso, allora, se vogliamo usare la parola in questo specifico caso, dovremmo dire che la parola più giusta è conoscitore di verità e di occulte, conoscitore di grandi verità. Ecco, negli e anni, questo è il caso di Roll. Negli anni 70, per chi non lo conoscesse, negli anni 70, sì, soprattutto, nel momento in cui diciamo che la trasmissione del pensiero, la capacità di usare le facoltà parapsicologiche, chiamiamole così, era particolarmente in auge, perché anche in televisione si devono esperimenti di questo tipo. Uri Geller, per fare un nome, giusto? Famoso, esatto, e uscirono tantissimi articoli anche su giornali, certo, importanti, sì, su settimanali, su appunto quello che Gustavo Roll riusciva a fare. Allora, io considero Roll non moderno, nel senso che la modernità appartiene più, per esempio, a Cagliostro. Nella sua epoca si dissociava da una verità. La verità qual era? C'era un mondo diviso in due, i poveri e i nobili. Lui invece era un povero che assurgeva nobile, rompendo la crosta di queste. Il caso di Role invece, Role è un personaggio aristocratico, un personaggio che possiede un fascino, un carisma, una cultura che si concede a molte persone e esercita senza essere retribuito, come già avveniva nel caso di Cagliostro. Però la sua figura è classica, classicheggiante, impera dentro una lettura precisa. È un uomo di cultura, è un antiquario, è un pittore, ha un passato affascinante, elegante, è un, come dire, un confidente di personaggi potenti. La sua figura non è moderna, è classica. Qual è il suo operato avviene attraverso gli apporti, cioè piccoli oggetti che si manifestano, sì, cioè qualcosa che proviene da altre dimensioni, scritture che appaiono in luoghi impensati, all'interno di libri, sulle pareti, dietro quadri, e giochi di carte, tanti giochi di carte, carte che si smaterializzano, carte che riappaiono dentro blocchi di ghiaccio, carte che spariscono da mazzo e si ritrovano sul cofano di una macchina di quella tal persona. Questi sono gli esperimenti nei quali, con i quali Roll si manifesta e dice di essere attraversato da questa verità, da questa conoscenza. Qual è la differenza fra il prestigiatore che dice di usare dei trucchi? Sì. In questo caso qui non possiamo parlare, non lo di possiamo trucchi dire, perché lui non ha ammette di usare. Esatto, ecco, questo è interessante, cioè lui non ha lasciato niente, in poche parole, quando se n'è andato non ha mai rivelato alla fine. Lui non ha mai accettato mai neanche di essere visionato da un caso, certo, di persone addette. Diceva che non si potevano replicare gli esperimenti, esatto. Ci lascia un'infinità di aneddoti, ci lascia un'infinità di libri scritti postumi da fedeli o da gente che stravedeva per lui, ma anche da tanta gente che invece diffidava. Suggerisco un mio carissimo amico di Torino, Mariano Tomatis, sì, che è un esperto di Role, ha scritto diverse cose su di lui. Chiaramente la sua esamina è più dentro la figura del prestigiatore, perché qui nella scuola di pensiero sono due: da una parte è, sì, c'è la mistificazione il del personaggio, e diciamo questa parola, realtà, dall'altra invece infatti, lui è un fenomeno vero. Esatto. Io non scendo in causa, devo solamente aggiungere che questa figura alla fine, ammettendo il dubbio, sì, aggiunge vita, certo, all'illusionismo. Ecco, qui voglio arrivare, sì, il ciarlatano di oggi, per chiudere abbiamo tre minuti, sì, e capire se oggi questo c'è ancora il bisogno di questo tipo di personaggio. È come un overbuck. Quai, altrimenti. Diciamo che sì, sarà un personaggio che non finirà mai, e io devo essere sincero, la parte più moderna dell'illusionismo, sì, di oggi è il mentalismo. Abbiamo spiegato che cos'è la chiaroveggenza, la tripatia, perché la gente però pensa, e questa è l'aspetto, cioè vuole moderno, credere ancora, vuole credere, dici, sì, vuole ancora credersi una possibilità. Tu, noi sappiamo com'è la realtà è fatta di cose ovvie, la quotidianità è attraversata da sofferenza, da fatica, dai problemi, non tutti sono fortunati, ognuno di noi cerca di sognare come può. Per sognare bisogna anche credere un po' in fondo nella bugia, nella menzogna, se è vissuta d'arte, come diciamo noi, se la menzogna è artistica, se quella dell'illusionista che ci spiega che noi abbiamo pensato una carta e invece in realtà l'abbiamo presa, se la menzogna ci aiuta a migliorarci, a avere più fiducia in noi, avere una certa autostima, allora la menzogna, l'illusionista serve. Quando invece viene manipolata per fare del male, è chiaro che va combattuta, e il prestigiatore deve combattere con tutte le sue forze chi utilizza questo meccanismo per imbrogliare. Ecco, andare a scoprire questo meccanismo, come hai detto tu adesso, può servirci a riconoscere chi sta mentendo invece in altri ambiti? Certo, perché le tecniche sono sempre quelle. Poi abbiamo un'infinità di libri che tu mi stai suggerendo qua, onestamente. Sì, mi dispiace, abbiamo tantissimi ospiti oggi, sì, ma ovviamente quando ci sei tu è difficile, ma meno male, c'è molto da dire. E devo dirti che sì, se conosci queste verità, puoi conoscere anche la storia. Se esorto tutti i giovani, tutti i ragazzi, invece di stare davanti alla PlayStation a farsi la testa con quel biro biro biro lì, innamoratevi dei giochi di prestigio, perché sono l'antica magia pura di prendere un foglietto, tagliarlo, costruire un gioco. Poi appassionandosi di illusionismo possiamo imparare a capire i meccanismi anche della storia, per guardare in maniera disincantata come la leggenda si diffonde attraverso un operato, che poi è quello dei prestigiatori, che stupendo 300 anni fa hanno costruito una leggenda. Bartolomeo Bosco, un grande prestigiatore, prestigiatore fermava tutti gli orologi di una città. Non era vero, il figlio diceva, io fermavo due orologi, certo, in un teatro, ma la leggenda si è diffusa talmente tanto. Per Udinì anche, voglio dire, Udinì, insomma, che non faceva spesso i suoi esperimenti, ma faceva dei gran belli articoli giornalistici, certo, e la gente parlava di lui. Se studi l'illusionismo o la storia del ciarlatanesimo, riesci a capire anche la storia. Ti liberi, perché, come dice il saggio, la conoscenza ci renderà liberi. Quindi, se io, come definizione della settimana enigmistica, per avere Raul Cremona, non so, Otto Orizzontale, scrivessi il più grande ciarlatano contemporaneo, a te farebbe piacere? Io direi che sarei molto contento, grazie di cuore. Cercheremo di farlo. Grazie davvero a Raul Cremona, e fra pochissimo invece sarà il momento del nostro gastronauta. Il riposo del guerriero. E anche in queste puntate estive del Riposo del Guerriero non può mancare il nostro gastronauta. Il gastronauta. Ciao Davide Paolini, benvenuto. Grazie, ma noi non riposiamo mai, ovviamente, anche in estate si continua a mangiare, a bere. Vorrei anche vedere. È evidente che i gastronauti non vanno mai in ferie, anzi. D'estate, secondo me, è il momento veramente interessante per scoprire, perché si ha più tempo a disposizione, fare itinerari, andare in giro, gustare con tranquillità, perché magari si è in vacanza, appunto, non è che ci sono gli orari fissi, quindi si può stare più a tavola, si può andare più in giro, magari si possono fare anche più chilometri, si può bere anche qualcosa in più, perché magari si rimane a dormire dove si è mangiato, quindi il mondo del gastronauta cambia. Assolutamente sì, e tra l'altro tutti diventiamo un po' gastronauti, no? Perché abbiamo appunto più tempo, come dicevi tu. Tra l'altro, proprio perché si gira, si guarda, si scopre, credo che sia necessario cercare di difendersi dai cialtroni, diciamo così, dai ciarlatani della gastronomia, ce ne perché sono ce tanti. Ne saranno. Beh, sai, come in tutti i mondi, come in tutte le professioni, come in tutti i mestieri, come in tutte le attività, ci sono i ciarlatani specialmente che spuntano d'estate. Perché? Perché d'estate ci sono molti locali che, specialmente nei posti di villeggiatura, hanno bisogno di cuochi, hanno bisogno di camerieri. Molti inventano dei nuovi locali e molte volte ti trovi di fronte a delle ciofeche incredibili. Cominciamo a parlare delle trattorie, perché sulla trattoria, allora, uno quando ha in mente la trattoria ha in mente un posto piuttosto economico, dove la cucina è ancora un po' quella di una volta, la tovaglia rigorosamente a quadrettini, bicchieri di vetro, e invece a volte nelle trattorie ti prendi di quelle mazzate. Ecco. Diciamo che i ciarlatani delle trattorie sono coloro che travestono un locale normale in trattoria. Allora come lo travestono? Innanzitutto i vestiti, mettono la tovaglia bianca e rossa a quadrettini, è quella tipica, Poi fanno un menù magari dicendo piatti del territorio, fanno trovare delle bottiglie di olio, sai, quelle di una volta con il tappo tipo idrolitina, sì, no? Quelle sì, bottiglie sì, lì sì, con l'etichetta scritta a mano. E beh, c'è sicuramente una scenografia innanzitutto da ciarlatani, c'è una cucina poi da ciarlatani, perché perché di solito si va a fare spesa nei supermercati o ancor peggio, e quindi si trovano magari delle cose già semi pronte e si preparano e si danno così in pasto all'improvvisato turista. Perché sicuramente molte volte ti trovi in difficoltà, ti trovi in un posto che non conosci, o d'altro, e sono l'una e mezzo, i bambini in macchina piangono, voglio andare a mangiare, babbo fame. Ecco, poi in Italia c'è questa cosa della cucina che chiude, guarda, quello è un dramma, cioè la cucina a un certo punto chiude, di solito alle 2 e alle 10 di sera, no? Che se tu vai dopo è impossibile mangiare qualcosa in cucina, perché il cuoco non c'è più. Ma se, si spera che nei posti di villeggiatura questo non succeda, però in molte città del nord succede, non succede a Napoli, non succede a Roma, non succede a Palermo, perché c'è l'abitudine a mangiare più fino tardi, a tardi. Ma di solito molte volte, sai, il problema è anche questo, che il cuoco scappa, anche perché ne ha fatte tante durante la giornata, che ha paura di rimanere fino tardi. Senti, ma come di fe c'è un modo per riconoscere, secondo te, quelle false, il trattoria in questo caso, da quelle vere? Ma sai, si vede probabilmente ad occhio, bisogna avere un occhio un po' allenato, però si può anche vedere, ad esempio, se fuori ci sono scritti i piatti, vedi se ci sono già la panna, perché molte volte cadono queste trattorie, cadono, e io ne ho una vicina dove ho l'ufficio, che ha fuori una lavagna, ecco, le lavagne, attenti alle lavagne fuori, perché le lavagne è un altro sintomo di quello che vuol diventare rustico, no? Sì. La lavagna scritto col gessetto, e lì vedi che a un certo punto ho letto che c'erano le penne all'arrabbiata con la panna, e allora lì mi sono un po' arrabbiato. Perché arrabbiato sì. Nel senso, sono un po' arrabbiato perché la rovina, cioè tu appena arrabbiata ci metti la panna. Già io la panna la vedo poco in generale, a me sembra sempre una cosa che si aggiunge tanto per, onestamente è una cosa mia e non è che l'ami. Ma guarda, molto. Io la detesto perché secondo me è veramente una cosa fuori luogo, ma la usano molti cuochi per amalgamare, ecco, perché per non quelli. Riescono altrimenti, sì. Quindi la amalgamo. C'è stato un periodo in cui la panna, tortellini, panna e prosciutto era un must degli anni 70. E anche la rucola, come la rucola degli anni 80, cioè, ti però, ricordi che c'era sempre comunque. Certo, la rucola, ma continua ancora la rucola, addirittura anche la pizza con la rucola. Però io amo la rucola, ad esempio, sì, perché la rucola va presa come insalata, perché c'è questo sapore amarognolo importante, non puoi metterla in tutte le salse. Però per tornare alla panna, sì. Diciamo c'è la crema di panna, che è diversa, perché tutti alla panna pensano alla panna montata, quindi quella è fuori luogo. Ci sono delle creme di panna che sono fresche, fatte bene, però non sono quelle confezionate a lunga conservazione, queste sono fatte bene, quindi su qualche piatto magari ci potrebbe anche stare, dicevo, tortellini, panna e prosciutto, che era un classico di Ugo Tognazzi, sì. Che lo promuoveva sempre in televisione. Ugo Tognazzi, parentesi, era un grande, un fine intenditore della cucina. Poi la gente lo vedeva magari in televisione, faceva la reclama alla panna o ad altre cose, pensava che fosse un grossolano. Assolutamente, lo posso garantire, perché io ho cominciato a scrivere su Nuova Cucina, la rivista diretta da Ugo Tognazzi, e ho avuto la fortuna di fare qualche riunione di redazione con lui. Cioè, era un uomo estremamente colto in fatto di cucina, e tra l'altro aveva una carbonara che tutti discutevano, perché lui passava, diciamo, il guanciale con un goccio di cognac e lo faceva, diciamo così, sbollire. Perché? Perché toglieva quel sapore molte volte di rancido che hanno. Non era assolutamente una cosa fuori luogo, e poi conosceva la storia della cucina, quindi assolutamente molti suoi consigli secondo me non erano presi così, erano presi un po', come posso dire, con un giro di spalle, una toccata di spalle dalla gente. In realtà invece era un fine dicitore della cucina. Ecco, tornando ai posti dove si può capitare d'estate a mangiare, a pranzo, a cena che sia, tu hai, a parte ristoranti stellati che hanno una cucina molto particolare, comunque quindi sono conosciuti da quel punto di vista, tu hai un range secondo te giusto per il prezzo di un primo, per esempio, cioè non so, dai 9 ai 12 euro, perché a volte vedi, non so, i primi ai 18, a 20 euro come i secondi, uno non sa mai, insomma è difficile, guarda che adesso anche capire quanto si può spendere onestamente in un ristorante non è così semplice. Guarda, ti faccio un discorso così, può sembrare molto tecnico, però è giusto farlo prima di sparare dei giudizi. Certo. Problema di molti ristoranti stellati, che la gente così grida lo scandalo, non si rende conto che questi ristoranti hanno 20 persone, 20-25 persone, quindi se uno fa il calcolo al costo di, diciamo, personale di questi ristoranti è molto alto. Un ristorante come quello non può assolutamente servire un primo piatto o un antipasto anche a parità di ingredienti, a parità di cucina, come gli altri, perché ha questo costo. Senza considerare la lavorazione spesso, che richiede tantissimo tempo prima di essere preparato il piatto, c'è una lavorazione ore e tempo. La pasta fatta a mano, certo. Cioè, sicuramente ha dei tempi. Infatti, li ho esclusi proprio da questo range di prezzo. Diciamo, perché secondo me è importante per fare un parallelo. Sì. Allora, cioè, ti dico che escludiamo questi, ma teniamo in considerazione questo fatto, non gridiamo lo scandalo. Certo, se tu poi anche mangi male e paghi un certo prezzo, è un'altra cosa. C'è veramente da far casino, come si dice, ma in realtà bisogna calcolare questo. Poi bisogna vedere anche gli ingredienti. È un altro fatto molto importante. Un conto è prendere, abbiamo parlato di guanciale, prendere un guanciale così, diciamo, di serie, come dico io, al supermercato, e un conto prendere un guanciale da un artigiano. Sicuramente c'è una differenza anche di prezzo. Prendiamo anche gli spaghetti, anche se tu prendi dei semplici spaghetti per fare una gricia, come dicono a Roma, col guanciale e lo spaghetto, ci sono spaghetti e spaghetti. Lo spaghetto fatto a Gragnano o lo spaghetto fatto in Puglia da Benedetto Cavalieri, lo spaghetto lungo, non hanno lo stesso prezzo di molti, diciamo, paste che si trovano ai supermercati. C'è una differenza sicuramente a chilo abbastanza pesante. Poi hai il parmigiano, anche lì ci sono delle differenze. Quindi dire, diamo dei range, sicuramente non si può andare sotto gli 8 euro per un primo piatto. Secondo me è difficile. Certo, si può trovare un posto anche che lo paghi 6 euro, anche 5 euro, però insomma attenzione se è un posto posto di campagna dove la location costa poco, ecco l'altro fatto sì, importante. Cioè, il posto dove si nel è. Centro di Milano, anche se è una trattoria, paga un affitto talmente alto, esorbitante, che sicuramente è diverso da un prezzo pagato in un, che ne so, in un paesino. Nei posti di mare, nei posti di villeggiatura, anche lì le location costano, perché sicuramente sono posti dove, diciamo, c'è richiesta di questi luoghi. E i vini invece? A questo punto i vini, perché anche quelli non sai mai quanto spendere, anche quando non li conosci poi ti basi sul prezzo. Su cosa ti basi? Sui vini, sui vini, non sapendo il prezzo all'origine di molte persone è evidente questo. Considera che molti fanno pagare il 70% più IVA. Oltre a quello che pagano, dovrebbe essere una media. Ad esempio negli Stati Uniti i ristoranti hanno un range, in Italia è molto variabile, purtroppo c'è una variabilità talmente alta che non si capisce assolutamente niente. Il problema di molti che se ne approfittano è proprio sul vino. Sì. Sul vino, perché non sapendo il consumatore quanto costano, non avendo un rapporto con altri ristoranti per molti vini, e delle volte prende delle ciofeche, nel senso che paga dei vini carissimi, perché poi sono quelli che il ristoratore paga meno che sicuramente hanno un ricarico più alto certo. Perché ci possono giocare, mentre di vini molto famosi più o meno c'è un livellamento. Qui cosa ti dico? Ti dico sicuramente che oggi a 15-18 euro al ristorante si dovrebbe bere un discreto vino. Io consiglio però a chi non conosce di chiedere un vino a bicchiere, di farsi dare la carta dei vini a bicchiere laddove esiste, di vedere i prezzi e di basarsi molto su quello. Certo che anche quello 4 euro a bicchiere puoi fare un calcolo, sì, tu vai in un ristorante, facciamolo. Tu vai in un ristorante e allora ti fai dare la carta dei vini e ti chiedi quanto costa un calice di quel vino, fai il rapporto, vedi che un bicchiere, dunque ogni bottiglia di 0,720 contiene 8 bicchieri, quindi fai il calcolo, vedi, moltiplica per 8 quello sì, che ti ha chiesto per calice, vedi se ti conviene prenderlo a calice o se ti conviene prendere la bottiglia. E spesso non conviene prendere a calice, a meno che appunto sei magari da soli e quindi una bottiglia non la faresti fuori mai. Attenzione, insomma, anche in due, probabilmente con mezza bottiglia l'etilometro scatta, quindi bisogna stare molto attenti su questo. Comunque stiamo attenti, qualche indicazione c'è, l'importante è andare a cercare, magari farsi consigliare, come dici sempre, no? Che alla fine della fiera bisogna scoprire e farsi consigliare anche dagli altri, sentire un po' chi c'è intorno a te per capire poi dove si va senza cadere nella trappola. Si può fare cucù col tavolino vicino oppure aspettare che qualcuno esca e gli dice allora com'è andata. Adesso sai che nei posti di villeggiatura ti cercano, no? Cercano di portarti dentro. Certo. Fanno, ecco, quindi. Specialmente in certe vie a Milano del centro. Vabbè, insomma, questo è il mercato. Magari facciamo comunque attenzione. Grazie Davide, ci sentiamo la prossima domenica. Alla prossima. Il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero su Radio 24 e parliamo di guerriglia marketing ovviamente col nostro Fabless. Fabless! Ciao Stefano, buongiorno a tutti. I cialtroni esistono anche in rete, guai se non ci fossero. Ah sì, assolutamente, tutti i giorni ne vediamo insomma. Ma tu sei uno di questi? Ma no, assolutamente, noi diciamo sempre la verità. Certo, tutto. Come no. Allora, da dove partiamo? Allora, guarda, partiamo dagli Stati Uniti, in particolare da New York, dove un gruppo di ragazzi ha dato vita al primo party per giocatori da console nudi. Certo. Con 3 solamente regole, niente indumenti, niente foto e niente alcol. Uno dei giocatori ha commentato la situazione in questo modo qui. Si riesce a giocare meglio, senza vestiti c'è più comfort. Certo. Il divertimento aumenta, niente cellulare da controllare, oggetti nelle tasche che danno fastidio. Guarda, io organizzo a volte delle partite a casa mia, così con videogiochi, mai fatti nudi però. Cioè, non so, io trovo che sia piuttosto imbarazzante in realtà. Cioè, così imbarazzante penso. Però magari il giocatore può riuscire a giocare in maniera molto più tranquilla, insomma. Ma anche io gioco tranquillo anche vestito, sinceramente. Anche non vestito. No? Cioè, non credo comunque che il fattore abito sia indumento sia un fattore di blocco verso il gioco. No, mi sbaglio. Vabbè, comunque. Ma qui ci sono comunque, se vedi dal video, i ragazzi sembrano molto, molto contenti di questa situazione e soprattutto si sentono molto a loro agio. Sì, ma l'hanno fatto per qualche motivo o esatto, semplicemente? Fatto che però erano in qualche modo, come dicevi tu, dei cialtroni. Ah, perché, eccolo là. Perché durante il video si vede un estensore per joypad, praticamente per il joystick, vale a dire un oggetto che si mette alla base del joypad per farlo più ergonomico, se vogliamo, cioè per riuscire a giocare meglio. Ah, okay. E che gli permette, diciamo, il concetto della massima libertà dei movimenti, maggior facilità nei movimenti e soprattutto comunicata direttamente alla comunità dei giocatori, perché naturalmente può essere una notizia di interesse generale, però è un è una notizia probabilmente che interessa molto e che attira molto l'attenzione della comunità. Ecco, io vedo due categorie interessate, quella dei giocatori e quella dei voyeur, francamente. Esatto, sì, probabilmente tutte e due. Poi adesso se i voyeur sono anche giocatori. Certo, mettiamo insieme le cose, va bene. Comunque era tutto farlocco, quindi non esistono, non pensiate possano esistere nel mondo gruppi, almeno non credo, veri, che si incontrino per giocare completamente. Ma poi magari dopo questa attività qui qualcuno ci ha pensato, certo. Sì, sì. Vabbè. Allora. Un'altra attività invece divertente è avvenuta durante lo scorso salone del libro di Torino. Ecco, allora io a questo punto voglio farvi ascoltare l'audio dove troviamo, non so se raccontare prima la cosa e poi fare, allora diciamo cos'è successo. Uno scrittore chiamato allora, è successo che uno scrittore chiamato Emanuele Madalon è andato in giro per il salone del libro a chiedere parere sulla sua ultima creazione, L'implosione, chiedendo dei pareri a personaggi illustri del mondo dello spettacolo, dalla Dandini a Sgarbi a De Cataldo, perché allora aveva già scritto tramite mail dicendogli grazie mille per i complimenti ricevuti, insomma che cosa ne pensa del libro, che cosa posso fare per migliorare. I vari VIP iniziano a dirgli che cosa dovrebbe fare secondo loro lo scrittore per migliorare, in base al fatto che dicono loro avevano letto il libro. Ma quindi questi fanno finta di averlo letto e non hanno mai letto niente, perché il libro non esiste, non ovviamente esiste. Noi abbiamo preso l'audio di due di questi personaggi famosi e uno di questi personaggi è la Dandini che risponde e poi c'è Neri Marco Re, sentiamo. La Dandini comunque c'è cascata, non me l'aspettavo che leggesse il libro che le ho mandato. Ah, ma chi sei tu? Scusa. Madalon, L'implosione, libro qua a Torino. Come no, certo, scusa. Che sì, e ti ha detto, sì. Mi ricordo, come no. Mi ha fatto proprio piacere, una cosa, io sono il mio primo libro. Bene. Cioè, una cosa... Lo prendo questo? Sì, okay, sì. Cioè, è incredibile davvero questo. Ah, ma sì, ma come ho fatto? Cioè, di che non l'hai mai letto e va meglio. Fai una figura, credo, anche minore a dire che non hai letto una cosa piuttosto di aver letto una cosa che non esiste. Scusami. Perché... Ma altri addirittura hanno dato anche dei consigli. Ah, ma secondo me però nel prossimo libro dovresti provare a fare meno così e più così. Però scusami, ma in questo modo uno perde la credibilità su tutto il suo passato alla fine. Perché allora capisci quanto ci sia di finto anche nelle cose che dovevano sembrare vere. Mi sono spiegato. Cioè, sono d'accordissimo. È un loro, magari è un modo per non sentirti diciamo deboli in quel momento, ma secondo me invece è la peggiore delle soluzioni. Infatti, immagino di sì. In questo modo. Onestamente, mi dispiace, anche io ci sono rimasto male. Ecco, diciamo la verità, non me lo sarei mai aspettato. Insomma, è un po' questa situazione mi ha deluso, ecco, è bravo comunque, cioè bravi proprio loro a creare questo tipo di scherzo, chiamiamolo così, una sorta di scherzo che è servito a smascherare anche quelli che non si pensano così, esatto, impreparati su queste situazioni, vabbè. Comunque, mi dispiace per Adandini, devo dire, vabbè, non solo per lei. Un'altra attività invece totalmente differente, anche per quanto riguarda poi gli obiettivi che voleva raggiungere, è quella relativa al lancio di un nuovo ologramma per auto, in particolare il primo assistente sotto forma di ologramma per auto. È un ologramma che riesce in qualche modo ad esaudire, se vogliamo, nove bisogni dell'automobilista, tra i più divertenti c'è per esempio quello che dorme l'ologramma che praticamente si sveglia solo ed esclusivamente se arriva un ladro nei pressi della macchina, quindi improvvisamente si attiva l'ologramma che fa scappare il ladro, piuttosto l'ologramma che ti sveglia mentre magari sei alla guida, quindi ti stai quasi per addormentare e arriva qualcuno. Appunto, ma la sorta è un po' come eravamo abituati a vedere in Guerre Stellari, no? Ecco, l'ologramma di Leila che appariva. Esattamente, però che succede? Che qui la notizia non era, insomma, associata ad un film, ma era associata in qualche modo anche qui ad una pubblicità. Perché nonostante tutto la notizia inizia a passare da molte parti come vero, comunque sia sicuramente come verosimile, e soprattutto inizia ad essere rimbalzata nelle varie fonti di informazione interessate appunto a questo tipo di argomento qui. Anche qui le visualizzazioni al video cominciano comunque sia a crescere, siamo più che altro comunque sia nel mercato italiano, dove sicuramente rispetto, non so, al mercato statunitense, anche 100.000 visualizzazioni, come era riuscito a ottenere questo video, è un numero comunque sia sicuramente interessante. Considerevole, certo. Che succede? Che raggiunto, diciamo, l'apice della notizia, viene svelata invece l'intento dell'operazione, perché dietro in realtà c'era il riposizionamento di un'assicurazione appunto per automobili, che in realtà incarna i valori, se vogliamo, di quello stesso ologramma, vale a dire sicurezza, vicinanza ed economicità. Quindi ancora una volta dobbiamo stare attenti quando si naviga in rete, tanti video che possono sembrare reali in realtà nascondono qualcos'altro, quindi sempre meglio, prima di cascarci, informarsi. Grazie Fable, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a te, ciao Stefano. Ciao. E dal guerriglia marketing ci spostiamo invece a Martina Franca, a Locco Rotondo e a Cisternino, se non mi sbaglio. Milly Semeraro, buona domenica. Buona domenica anche a lei. Allora, Milly Semeraro è il capo progetto, chiamiamola così, di quello che è il Festival dei Sensi, che si terrà in queste tre località il 26, il 27 e il 28 agosto, giusto? Giustissimo. Allora, Festival dei Sensi, tre località, tre giorni e proprio tantissime iniziative, quindi adesso cerchiamo di ordinare un po' le idee e capire cosa succede in questi tre giorni. Ci proviamo. Sì. Il Festival dei Sensi è una manifestazione abbastanza originale che si tiene in questa valle, la Valle d'Itria, la Valle dei Trulli per intenderci, e nella quale chiamiamo grandi esperti a tenere lezioni divulgative, leggere e un po' trasversali, un po' originali, in luoghi di speciale bellezza. In molti casi si tratta di dimore storiche private aperte eccezionalmente al pubblico per i festival. Ecco, quindi c'è anche la possibilità di vedere posti che normalmente non si potrebbero vedere, per esempio. Esatto, esatto, sì. Perché c'è un asino come logo, diciamo così, del festival di quest'anno? Sì, c'è un asino perché noi quest'anno il festival non è propriamente tematico, però approfondiamo un argomento quest'anno che è il paesaggio, e c'è sempre un gioco simbolo in questo festival, e quest'anno è l'asino, perché esiste una razza di asini meravigliosi, bellissimi, autoctona, e l'asino di Martina Franca, che partecipa ampiamente a questa terza nostra edizione. Ma lo userete nel senso che, non so, farete, scorrerete per esempio per le vie di Martina Franca con gli asini, scorrazzerete? Dunque, anzi. Tanto per cominciare, noi inaugureremo a Cisternino e ci sarà una eccezionale sfilata di stalloni di asini martinesi, cosa molto rara, perché credo che in tutta Italia ne esistano circa 25 esemplari, e questi sono i più belli, quindi parteciperanno all'inaugurazione con noi. Poi parteciperanno anche in veste, diciamo, figurata ad una lezione meravigliosa che terranno Franco Farinelli e Ruggero Pierantoni sulla storia e la filosofia di questo animale. Ecco, scusa mi interrompo Milly, ma sabato 27 agosto io vedo che ci saranno le lezioni di Trullo. Ecco, vorrei capire cosa sono le lezioni di Trullo. Sì, è carina questa cosa, è una, diciamo, una lezione laboratorio. Sì. Dunque noi abbiamo trovato un bellissimo gruppo di trulli, diciamo, un po' diroccati, e il proprietario gentilmente ci ha concesso di come dire, usare il sito per fare una lezione laboratorio. Ci sarà un personaggio straordinario di nome Martino Lo Deserto, che è un signore simpaticissimo, meraviglioso, di 80-85 anni, credo settima generazione di trullari della sua famiglia, che è forse l'ultima persona rimasta ad essere in grado di costruire un trullo senza un etto di malta, diciamo. Ecco, quindi un grande esperto. Noi invitiamo i partecipanti a venire con un bel grembiule e un cuscino, perché così provano, insomma, anche loro a giocare con le pietre. Certo, magari a costruirsene uno, forse in miniatura, però a provarci. Ecco, poi il Presidente della Repubblica avrà un ruolo importante in questa manifestazione quest'anno. Diciamo che noi siamo molto onorati di aver ricevuto una medaglia dal Presidente Napoletano per questa edizione, una cosa che ci rende molto

Perché sei così restio a servire il paese nel momento del bisogno? Sappiamo bene che hai perso tutto, ma devi ridestare il tuo spirito patriottico per farti forza. Il nostro glorioso leader, Kim Jong-un, vi insegnerà a sfruttare le risorse naturali del paese. Permetterà a tutti di prosperare. È il nostro regalo per voi. Ma tu... tu ci costringi a mettere in discussione la tua dedizione alla causa americana. Portatelo via! Il titolo di THQ, sviluppato da Chaos Studio, è uno sparatutto in prima persona che fa della storia la sua forza principale. Grazie anche all'ottimo doppiaggio e alla vicinanza con fatti di stretta attualità, il titolo, disponibile per PlayStation 3, Xbox 360 e PC, è entrato a far parte di diritto nell'Olimpo dei migliori giochi di questo tipo fino ad oggi mai realizzati, anche se per qualcuno la storia in modalità giocatore singolo è troppo breve. Vogliono tagliarci la strada! Spero che questa liberazione valga tanto quanto la pagheremo. Devi combattere con noi, Jacobs! Spara, spara! L'intelligenza artificiale del gioco non permette di buttarsi nella mischia e sparare a caso. Bisogna usare tattica e avere pazienza, come se ci si trovasse davvero in un'azione di guerriglia. Due in arrivo dal recinto! Tira alla testa, ogni pallottolo è prezioso. L'azione a più giocatori ha diverse modalità e alcune si differenziano da quelle tipiche degli altri titoli simili. A questo proposito, devo menzionare la nuova modalità Commander, che evita ai più bravi di avere sempre la meglio. E quando si gioca in multiplayer, infatti, molti partecipanti cercano una postazione nascosta e da lì colpiscono i nemici che passano da quel punto e sparano senza timore di essere beccati e avendo quindi sempre la meglio. In questa modalità, invece, chi userà quel tipo di strategia verrà immediatamente segnalato sulla mappa e così i giocatori avversari sapranno dove andare a colpire, obbligandovi di fatto a uscire allo scoperto e spostarvi spesso. Non si torna indietro, sei macchiato di sangue coreano, ora sei nella resistenza. Per chiudere voglio parlarvi di un'azienda che nel 2004 rivoluzionò il modo di giocare inserendo il touchscreen e due anni più tardi lo rivoluzionò di nuovo portando nel gioco il movimento. Oggi è il caso di dire che la rivoluzione è davvero profonda. Parliamo della nuova console portatile 3DS che ha debuttato in tutto il mondo il 25 marzo. Si tratta di una console simile a quella precedente, con un doppio schermo. Il primo, quello in basso, è un touchscreen che risponde quindi ai comandi toccandolo con le dita o con lo stilo incorporato, mentre lo schermo in alto, più largo e con un rapporto di 16 noni, offre la possibilità di una visione davvero tridimensionale senza l'utilizzo degli occhialini. Scusate il gioco di parole, però la prima cosa che salta all'occhio è proprio la sensazione di profondità offerta dallo schermo 3D, per nulla fastidiosa e molto efficace, e comunque può essere regolato o eliminato del tutto. Inoltre è stato aggiunto un comando simile a un joystick da muovere col pollice che permette un controllo completo dell'azione a 360 gradi e garantisce quindi la libertà e la precisione necessaria per giocare in mondi tridimensionali. Sensore di movimento e giroscopio integrati poi offrono l'opportunità di un'immersione nell'esperienza di gioco ancora più efficace. Le novità a disposizione sono molte e si possono avere da subito senza dover acquistare giochi a parte. Con le carte realtà aumentata, per esempio, le trovate nella confezione, trasformerete il tavolo di casa in un piano di gioco che prenderà vita e produrrà draghi sputafuoco. Nella confezione ce ne sono 6 e provarle è stata una vera scoperta. Un'altra innovazione è la funzionalità Street Pass. Se la attiverete, la vostra console sarà viva anche quando la terrete spenta in tasca. Se nelle vicinanze c'è qualcuno con una 3DS con Street Pass attivato, le due console si scambieranno informazioni, foto e premi e così, e quando riaccenderete la vostra per giocare, troverete contenuti nuovi provenienti da giocatori incontrati per caso. L'integrazione della connessione Wi-Fi, inoltre, vi dà la possibilità di acquistare e scaricare dalla rete materiale aggiuntivo e interi giochi. Una considerazione va fatta anche alle videocamere presenti. Ce n'è una rivolta verso di voi interna e una esterna con due ottiche per scattare fotografie tridimensionali. In questo modo potrete anche conservare ricordi 3D del mondo che vi circonda e dei vostri amici. C'è anche un microfono e un software per catturare e modificare i file audio e la musica. La nuova console 3DS era stata già accolta molto bene dal settore videoludico quando venne presentata in anteprima qualche mese fa, e sotto molti aspetti è migliore di quello che si pensava, soprattutto per quanto riguarda l'efficacia del 3D senza occhialini. Inoltre è stato inserito un filtro per la famiglia che consente ai genitori di controllare e gestire l'utilizzo della console da parte dei figli per evitare che giochino troppi, a orari sbagliati o con titoli non adatti alla loro età. Se avete una vecchia DS, la nuova 3DS vi consente di giocare anche ai titoli già in vostro possesso. Se desiderate una console portatile, vale davvero la pena provarla. Ed è tutto anche per questa puntata del Riposo del Guerriero. Grazie come sempre a Viola Bottoni, a Giorgio De Luca in redazione, alla regia di Paolo Corleoni. A voi per l'ascolto. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini.